Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Le borse affondano di nuovo, Milano perde oltre il 5% e vanno male tutti gli istituti di credito. Via libera intanto nella notte ai decreti sulle banche e oggi dichiarata l'insolvenza di Etruria. A Brescia una maxi operazione contro la pedofilia, in manette anche un prete e un vigile urbano, tra gli arresti un uomo malato di HIV. Pagavano tra i 20 e i 100 euro, inchiesta nata dalla denuncia di una madre. A Napoli ancora morti nelle strade, a Saviano uccisi due uomini di poco più di 30 anni, 7 le vittime in appena 5 giorni. Evasa la pratica a Milano, dove il candidato sarà il manager Stefano Parisi, il centrodestra ancora alle prese con le scelte per la candidatura di Roma, spunta la Pivetti. 2 anni sabbatici per un incarico a Palazzo Chigi, Diego Piacentini, il numero 2 di Amazon, torna in Italia come capo del digitale del governo. Per Sanremo un altro boom di ascolti, il miglior dato dal 2005 e anche oggi metà dei telespettatori incollati allo schermo. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti in apertura come sempre, effettogiorno@radio24.it per scriverci, il 349-238-6666 per i vostri sms e anche per i messaggi su WhatsApp. E anche oggi torniamo ad aprire di mercati perché è un'altra giornata molto pesante. Deborah Rosciani, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, qua c'è l'imbarazzo della scelta sulle cattive notizie da dare in questo momento. Milano, meno 5,4%, ma stamattina la giornata è iniziata malissimo. Subito, nel giro di un'ora, praticamente Piazza Affari ha bruciato tutto quel rialzo che era riuscita a mettere in campo ieri, rimbalzando dopo due giornate che pure erano state molto difficili. Le motivazioni di questo ribasso nuovamente molto pesante: Parigi a meno 4, Francoforte sta perdendo il 2,86%, Londra meno 2. Le motivazioni, dicevo, sono le stesse degli ultimi giorni, ma c'è un focus sulle indicazioni che sono state fornite ieri dalla Banca Centrale Americana, da Janet Yellen, che parlando al Congresso ha addirittura aperto all'ipotesi, se necessario, di un taglio di interessi negli Stati Uniti, mentre come sapete a dicembre è ripresa la politica monetaria restrittiva con un aumento dei tassi dopo molti anni appunto in America. A mettere benzina sul fuoco stamattina abbiamo anche notizie negative sul fronte bancario, perché c'è un tracollo di UbiBanca, meno 14%. Il gruppo ha divulgato i dati questa mattina e molti target sono stati colti male appunto dagli operatori. A far compagnia a UbiBanca, a tutti gli altri big del settore bancario: Popolare dell'Emilia Romagna meno 11, Monte dei Paschi meno 9, Unicredit meno 9, Mediobanca meno 8,5 punti con il Banco Popolare. Il bollettino di guerra prosegue appunto in questo senso. Atene perde 6 punti percentuali, pure sulla borsa greca si stanno scatenando vendite pesantissime sul settore bancario. L'avversione a rischio naturalmente si traduce in un aumento dello spread a 150 punti base, soprattutto per effetto della riduzione del rendimento del BTP, del Bund tedesco, che naturalmente sta sfiorando livelli minimi mai visti, praticamente quasi azzerato il rendimento del decennale tedesco. Una notizia che è arrivata poco fa, proprio anche in questo senso, a dimostrazione del pessimismo che sta riguardando tutti gli operatori appunto finanziari a vario titolo: l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, gruppo che era in procinto di quotarsi in borsa, ha fatto sapere che la quotazione slitta almeno al 2017, quindi rinviata addirittura di un anno. Direi che non è proprio il momento adesso per debuttare sul mercato azionario. Solamente un flash sui BTP collocati questa mattina dal Tesoro italiano: 1 miliardo di titoli a 15 anni, tasso al 2%, in rialzo i tassi per i triennali allo 0,11% e per i tassi del settennale all'1,05% in Italia. Simone, al momento direi che è abbastanza. Direi decisamente, grazie alla nostra Deborah Rosciani, e poi di mercati torneremo a parlare nel corso di questa puntata. Faremo anche un'analisi di quello che sta succedendo, anche del come mai ieri le borse sono salite così tanto e oggi tornano a scendere. Poi torneremo ad aggiornarvi con i colleghi di Radio Core Il Sole 24 Ore, come sempre l'appuntamento delle 13:30. Si parlava di istituti di credito, ebbene questa mattina il Tribunale di Arezzo ha dichiarato lo stato di insolvenza della vecchia Banca Etruria. Lo ha deciso il collegio fallimentare al quale era stata sottoposta la richiesta dal commissario Giuseppe Santoni. È stata rigettata la eccezione di costituzionalità proprio sul decreto salvabanche che era stata presentata dagli avvocati di Lorenzo Rosi, che è stato l'ultimo presidente dell'istituto. Intanto ieri il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera ad una serie di decreti che riguardano proprio gli istituti di credito. C'è la riforma del credito cooperativo, c'è il via libera alle nuove norme per lo smaltimento delle sofferenze, ossia dei crediti inesigibili, anche un DDL per la riforma della legge fallimentare. Vediamo di fare un punto completo complessivo con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Un via libera a quello del governo, Simone, al decreto banche arrivato dopo un lungo confronto all'interno dell'esecutivo. Si parte allora dalla riforma delle banche di credito cooperativo. La mediazione fa salva la creazione di un grande gruppo, una holding, un grande ombrello, lo ha definito il presidente del Consiglio Renzi, con una massa critica, 1 miliardo di euro, che possa andare nella direzione del consolidamento, mantenendo un modello che non va buttato tutto via, va difeso ma anche protetto, ha spiegato il ministro dell'economia Padoan. Le banche quindi saranno libere di non aderire alla holding, a patto però che abbiano una soglia minima di patrimonio di 200 milioni di euro e che versino, per poter mantenere le riserve, all'erario il 20%. L'esecutivo punta quindi a rafforzare il sistema bancario velocizzando la cessione dei crediti. Le vendite all'asta saranno per tutto il 2016 esenti dall'imposta di registro. Via libera quindi dal governo alle garanzie statali sui crediti deteriorati. Il prezzo della garanzia è di mercato. Quanto alle misure per i rimborsi per gli obbligazionisti subordinati, arriveranno presto, non c'è stato alcun rinvio, ha spiegato il presidente del Consiglio Renzi. Si è deciso di andare avanti con i semplici decreti previsti dalla legge di stabilità e non più con un decreto legge. È tutto, linea allo studio. E grazie al nostro Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento, e anche di questi decreti sulle banche torneremo a parlare più avanti. Lo faremo con Marco Ferrando, il Sole 24 Ore, che in questi giorni ci sta aiutando molto a capire che cosa succede e quale può essere l'impatto successivo di tutte queste vicende. Veniamo ai vari fronti politici, che anche oggi sono due: le unioni civili e la partita delle amministrative. Iniziamo dal DDL Cirinna, che ieri è approdato in aula e che sta spaccando il Partito Democratico. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Prosegue in aula al Senato la discussione sul DDL Cirinna, oggi all'esame gli emendamenti. Le votazioni invece riprenderanno martedì, dunque sono giorni in cui le trattative entrano nel vivo, soprattutto sul numero degli emendamenti. Saltato il patto tra PD e Lega per il ritiro di 5.000, ne restano in piedi oltre 6.000, mentre tensione all'interno del PD con i cattolici, che avevano chiesto di aumentare gli emendamenti sui quali il partito avrebbe lasciato libertà di coscienza, richiesta respinta dal capogruppo Zanda, che ha disposto di dare libertà di voto solo su 3. Al centro del contendere, come sappiamo, è sempre la stepchild adoption, cioè la possibilità di adottare il figlio del partner anche nelle coppie omosessuali, un punto sul quale i numeri sono sempre in bilico, e la battaglia è ora per il voto segreto, che potrebbe aiutare i cattolici del PD, centristi e la destra a bloccare la stepchild adoption. Ma ieri il presidente del Senato Grasso ha in qualche modo creato un precedente in senso contrario, negando il voto segreto sull'emendamento proposto da Quagliariello e Calderoli, che avrebbe bloccato l'iter legislativo del provvedimento. Dunque l'orientamento che si profila è quello di voti segreti concessi con il contagocce. Per questo Calderoli attacca e parla di scelta politica. Intanto seduta movimentata anche in queste ore, con le posizioni che hanno dato battaglia su questioni procedurali, mentre il Movimento 5 Stelle chiarisce che voterà a favore del DDL Cirinna, anche se nel testo finale non ci sarà la stepchild adoption. E da Roma è tutto. Ti ringrazio, grazie ad Alessandra Schepisi per questo aggiornamento. Come si diceva, l'altro fronte è quello delle amministrative. Saltato il nome di Rita Dalla Chiesa e saltato anche il vertice serale a Palazzo Grazioli, a Roma per il centrodestra si complica la partita per la scelta del candidato sindaco alle prossime comunali. Sulla conduttrice televisiva proposta da Fratelli d'Italia è arrivato il veto del segretario leghista Salvini, che ora torna a parlare di primarie. Al limite, se non si riesce a trovarlo intorno a un tavolo, si facciano primarie per la città. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5 persone a disposizione. Facciamo scegliere i cittadini romani. Ma a rilanciare sulle primarie è anche la leader di Fratelli d'Italia, Meloni. A questo punto la domanda che rivolgo a Berlusconi e Salvini è: quando vogliamo vederci per stilare insieme le regole per la celebrazione delle primarie in tutte le principali città italiane? Le primarie però non piacciono a Silvio Berlusconi, che non avrebbe ancora del tutto rinunciato all'idea di convincere Guido Bertolaso, ma in Forza Italia c'è anche chi insiste per una convergenza su Alfio Marchini. Se a Roma le trattative sono ancora in alto mare, a Milano sembra invece fatta per Stefano Parisi. Il manager ieri ha sciolto la riserva e sarà lui quindi con ogni probabilità il candidato con il quale il centrodestra sfiderà il neo vincitore delle primarie del centrosinistra, Giuseppe Sala. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si sta chiudendo in queste ore la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, negli Stati Uniti. Mario Platero ieri lo ha intervistato. Sentiamo un passaggio dell'intervista e poi il resto lo sentiremo in America 24. Ieri si è incontrato con molti ambasciatori che poi votano per dare magari all'Italia la possibilità di avere un seggio al Consiglio di Sicurezza per il biennio 2017-2018. Ecco, qual è stata la sua sensazione qui all'ONU e da quell'incontro? Non è stato un incontro di campagna elettorale, anche perché vi era presente qualche concorrente. Naturalmente noi teniamo molto a questa, la nostra candidatura, teniamo molto a poter dare un contributo anche in quella sede autorevole alla vita delle Nazioni Unite. Siamo fiduciosi sul risultato, di questo naturalmente non si è parlato col segretario generale perché non è argomento che il segretario possa trattare, ma l'azione del nostro ambasciatore, del Ministero degli Esteri è molto attiva e le simpatie nei nostri confronti sono tali che fanno ben sperare. Ma lei è pronto a fare campagna, Presidente? È una domanda strana questa. Campagna elettorale la fanno i Presidenti. Siamo qui in tempo di primarie, per questi obiettivi le campagne si svolgono con le buone relazioni, con la credibilità e l'affidabilità. Così dunque il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervistato da Mario Platero. Vi ripeto, l'intervista integrale la potrete sentire tra poco alle 13.45 in America 24. Siamo alla cronaca. A Brescia, come già vi raccontavamo nei titoli, c'è stata una maxi operazione contro la pedofilia. In manette sono finiti anche un prete e un vigile urbano. Tra gli arresti un uomo malato di HIV e, da quel che si è appreso fino adesso, pagavano tra i 20 e i 100 euro. Un'inchiesta nata dalla denuncia di una madre. Si è appreso poco fa che il PM aveva chiesto il carcere per gli indagati, mentre invece il GIP ha disposto i domiciliari. Di questo torneremo a parlare tra un attimo. Intanto ci occupiamo delle violenze a Napoli che proseguono. Il dibattito sulla presenza dell'esercito continua a Napoli, insieme agli agguati e ai morti di Camorra. L'ultimo agguato ieri sera nel Nolano, uno di quelli dove sembra ci sia la mano della Camorra più spietata. Eppure Francesco Tafuro, 33 anni, e Domenico Liguori, 32, non sembra avessero alcun legame con la criminalità organizzata. Gestivano un centro scommesse a Somma Vesuviana, comune di residenza di Liguori, con un piccolissimo precedente per gioco d'azzardo. Nessuna macchia invece per Francesco Tafuro, incensurato residente a Saviano. Amici e soci in affari sono morti come due boss, finiti sotto il tiro di numerosi colpi di pistola mentre erano in auto. In appena 5 giorni a Napoli e provincia sono state assassinate 7 persone, 12 dall'inizio dell'anno. Misterioso anche il ferimento di un giovane di 19 anni, incensurato, colpito mentre era con un gruppo di amici ieri sera a Napoli, in centro. Il giovane è ricoverato all'ospedale Pellegrini e non è in pericolo di vita. Mattanza che riprende dunque e fa più paura, perché l'impressione degli inquirenti è che si sia progressivamente abbassata l'età dei killer, meno esperti, più spietati. Anna Rita Rambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo è uno dei temi che andremo ad approfondire più avanti, ne parleremo, abbiamo avuto conferma pochi istanti fa che parleremo con lui, ne parleremo con il questore di Napoli per capire effettivamente che cosa sta succedendo in città, quali possono essere le soluzioni e cosa rappresenta questa nuova ondata di violenza. Torniamo ad occuparci in parte delle decisioni del governo di ieri, o meglio di un incrocio tra la decisione di una grande multinazionale americana e quello che ha deciso il governo, perché che c'è un italiano che è di fatto il braccio destro di Jeff Bezos, ossia del patron, fondatore e guida di Amazon, che verrà in Italia a fare di fatto il commissario digitale, per così dire, per Palazzo Chigi. Si tratta di Diego Piacentini, ecco un ritratto. Si prenderà una pausa di 2 anni da Amazon, dove è attualmente capo dei mercati internazionali ed è uno dei numeri due del fondatore Jeff Bezos. Dal 17 agosto Diego Piacentini sarà il commissario straordinario del governo italiano per il digitale e l'innovazione e dovrà coordinare, razionalizzare e velocizzare strutture e progetti già avviati e forse lanciarne dei nuovi. Non sarà certo facile trasferire la cultura di un'azienda dot-com americana nella pubblica amministrazione italiana, ma Piacentini, che oggi ha 56 anni, parte da un'eccellente esperienza e visione di quello che accade nel mondo digitale, in particolare sulla costa occidentale degli Stati Uniti, dove lavora da una 30 anni, 16 in Amazon, dopo essere diventato vicepresidente anche in Apple. Lavorerà a titolo gratuito e non dovrebbe essere un problema per uno che nel 2014 ha dichiarato un reddito di quasi 7 milioni. Infine, è interessante registrare che anche il grande capo di Piacentini, Bezos, ha accettato con piacere di prestarlo all'Italia, concedendo un doppio anno sabbatico, una scelta rara anche nei moderni Stati Uniti. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo a Sanremo adesso, Sanremo con un altro boom di ascolti. Marta Cagnola, nostra inviata. Ciao Marta. Ciao Simone, posso dirti che qua sono tutti felici, sorridenti, super sorridenti, anche qui si parla di boom di ascolti. L'unico che non vuole mai utilizzare questa espressione è Carlo Conti, che dice si continua a pedalare ma il sorriso aumenta. Carlo Conti è sempre così, da soddisfazione solo all'ultimo. Però diamo un po' i numeri. Allora, in media ieri sera 10.748.000 telespettatori, cioè 49,91%. Per renderci conto, adesso stanno cercando di capire come arrivare al 50, e questa sera con la serata delle cover sarà più facile, perché si andrà avanti fino all'una, cioè durerà veramente tanto il festival questa sera. Per andare a trovare un risultato così alto bisogna andare nel 2005. Paolo Bonolis aveva fatto il 52,80%, 11 anni fa, però la televisione in generale era molto diversa 11 anni fa. I picchi, quello di ascolto sui bambini della scuola elementare, quello di share, di percentuale, la bellissima canzone di Nino Frassica, però la Rai ha voluto sottolineare, secondo me giustamente, l'intervento del pianista compositore Ezio Bosso, che è stato straordinario. Nessuna risposta alle provocazioni e alle domande sui nastrini, arcobaleno, e l'ultima, così, l'ultimo motivo di agitazione in questi minuti. Allora, Fiorello ha twittato: ci vediamo a Sanremo sabato. Sì. Giancarlo Leone, direttore di Rai 1, gli ha risposto su Twitter. Adesso la risposta di Fiorello è: ci vediamo ma non ci tocchiamo sabato. Chissà, e quindi chissà che succede, magari magari approda pure Fiorello a Sanremo, un'improvvisata, va bene. Sì. Senti Marta, vedremo come andrà. Io intanto ti ringrazio. Facciamo una cosa: abbiamo come ogni giorno anche il diario dell'insider, per così dire, no? Di Enrico Ruggeri, però magari ce lo sentiamo più avanti. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, affrontiamo altri argomenti, quindi di nuovo magari i mercati, perché notizie degli ultimi minuti parlano di uno spread, della differenza di rendimento tra i titoli italiani e i titoli tedeschi a 10 anni, che sale fino a 160 punti, quindi il traffico, parliamo subito dopo di questo, e poi vicende di cronaca da Napoli a Brescia. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: le borse affondano di nuovo, Milano perde oltre il 5%, vanno male tutti gli istituti di credito, lo spread oltre i 160 punti, Ferrovie dello Stato intanto rinvia la quotazione al 2017, ieri il via libera ai decreti sulle banche e oggi è stata dichiarata dal Tribunale il fallimento, l'insolvenza di Etruria. A Brescia una maxi operazione contro la pedofilia, in manette anche un prete e un vigile urbano. Di questa vicenda torneremo a parlare più avanti. Tra gli arresti anche un uomo malato di AIDS, pagavano tra i 20 e i 100 euro per le prestazioni. A Napoli ancora morti nelle strade, a Saviano uccisi due uomini di poco più di 30 anni, 7 le vittime in appena 5 giorni. E saremo un altro boom di ascolti, il miglior dato dal 2005, anche oggi metà dei telespettatori incollati allo schermo. Andrea Franceschi del Sole 24 Ore, ciao Andrea, buongiorno. Ciao Simone. Allora, aiutaci a capire che cosa succede e al di là, insomma, dei temi generali che abbiamo affrontato anche nei giorni scorsi, magari tra un attimo ci torniamo, ma soprattutto quello che vogliamo capire è come mai ieri i mercati sono cresciuti del 5% e oggi scendono del 5%. Ci sono anche delle ragioni tecniche, delle scelte di alcuni operatori? Cioè, diciamo che dall'inizio dell'anno sui mercati finanziari stiamo vivendo una situazione di estrema volatilità, con fortissimi scostamenti, anche se si vuole, cioè da un certo punto di vista giustificati da motivazioni di tipo dai fondamentali, ma da un altro punto di vista amplificati forse eccessivamente da alcuni fattori tecnici. Nello specifico, la giornata di oggi un elemento di nervosismo l'ha fornito la decisione a sorpresa della banca centrale svedese di tagliare ulteriormente i tassi di interesse. C'è in generale una situazione di, se negli anni scorsi diciamo i mercati si appellavano, che viene percepito, scusami Andrea, lo chiarisco agli ascoltatori, viene percepito dai mercati come una visione da parte appunto di questa banca centrale del fatto che l'economia non andrà bene perché taglia i tassi, perché pensa che l'economia non vada bene. Prego, continua. Paradossalmente non è così, nel senso che l'economia svedese va bene, quello che non va bene è l'inflazione, che sì, in Svezia come in Europa, come negli Stati Uniti, subisce continue pressioni al ribasso. La situazione che preoccupa un po' gli investitori è il fatto che ci troviamo in una situazione in cui le banche centrali in tutto il mondo fanno la corsa a tagliare i tassi di interesse. Abbiamo visto la banca centrale giapponese ha fatto un grossissimo taglio dei tassi, adesso la Federal Reserve, che sembrava avviata verso un percorso di rialzo dei tassi, abbiamo visto che si muoverà con una certa prudenza. Si ha la sensazione che questa sorta di guerra delle valute, come viene chiamata in gergo, possa amplificarsi ulteriormente. Il problema è che questa guerra delle valute non è un classico gioco alla somma zero, sì, perché se tutti svalutano la loro valuta, l'effetto reale poi non c'è più. Sì. Poi c'è di fatto c'è un ulteriore fattore, diciamo, tecnico. Sì, e ti chiedo di chiudere brevemente, Andrea, vai, però è importante. Sì, no, fondamentalmente c'è una questione che sono in questo momento grossi soggetti che stanno liquidando grosse posizioni. Penso in particolare ai fondi sovrani dei paesi arabi, che devono fare i conti con un grosso crollo del prezzo del petrolio. Queste vendite forzate in qualche modo amplificano ulteriormente le fluttuazioni dei listini, anche perché la finanza, come sappiamo, è governata sempre di più da meccanismi di trading automatico che non fanno altro che amplificare le oscillazioni al rialzo e al ribasso. Questo certo spiega il motivo per cui in questi giorni le oscillazioni sono così marcate e così forti. Ti ringrazio, grazie ad Andrea Franceschi del Sole 24 Ore per le spiegazioni che ci ha date. Saluto Guido Marino, questore di Napoli. Questore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e a chi ci ascolta. Allora, altre due vittime a Saviano, due uomini di 33 e 32 anni, sale complessivamente in 7 morti in 5 giorni, diciamo, nell'area vasta, se ci consente di dire. Che cosa sta succedendo, questore? Beh, commentare questi episodi diventa da un lato estremamente banale, dall'altro estremamente complicato, però una cosa mi sento di dire: intanto si tratta di episodi totalmente slegati tra di loro, a dispetto di quello che qualche opinionista sostiene, slegati non soltanto geograficamente, perché episodi tutti avvenuti in aree diverse del capoluogo e della provincia, legati semmai da un unico denominatore comune, che è lo spaccio di droga e quindi la competizione, la contesa per conquistare o riconquistare una piazza di spaccio. Detto questo, è chiaro che non è soltanto il numero degli omicidi ad allarmare, che già di per sé è sufficiente per allarmare. La giusta dose di allarme, di attenzione e di impegno è l'unica cosa che mi sento di garantire. Tutti questi omicidi sono ovviamente oggetto di indagini, ragione per la quale non mi sogno di certo parlare. No, questo naturalmente, questore. Io ho visto una sua dichiarazione piuttosto amara, per così dire, nei giorni scorsi, no? Ha detto: qui chi vede, e c'è gente che vede, non collabora. Sì, e già la confermo integralmente. Allora, partiamo dall'idea che questi cosiddetti clan camorristici hanno subito legnate abbastanza consistenti nel corso del 2015 e anche prima, e ne subiranno ancora naturalmente. Questo porta ad un paradosso che però rappresenta la realtà. I vecchi capiclan, i vecchi clan intesi come gruppi strutturati, non esistono più. Noi abbiamo a che fare con quattro parassiti, aspiranti camorristi, disorganizzati ma ugualmente pericolosi, come i fatti ahimè dimostrano, che non si preoccupano più di tanto ovviamente di colpire i modo mirato, ma di colpire basta, di colpire per terrorizzare, di colpire per intimidire, di colpire per marcare il territorio, e questo li rende ancora più pericolosi. Ovviamente, parlando di veramente di gruppi di smidollati poco più che maggiorenni o addirittura neanche maggiorenni, è logico che trattandosi di nuove leve, proprio perché nuove chiaramente vanno affrontate, sì, con così, senza improvvisare, senza fare troppo analisi sociologica. Sì. Ovviamente queste indagini, ho sempre parlato di indagini che partono, sì, ad handicap, per una ragione evidente: un omicidio in pieno centro, in pieno giorno, in un posto trafficato come Ponticelli, Forcella, la Sanità, in cui non c'è neanche la possibilità di attingere non la testimonianza risolutiva, ma semplicemente l'indicazione sulla dinamica del fatto, e quindi il primo sforzo va fatto proprio per individuare un testimone utile. Lei comprende che tutto parte in sanità, certo, per certo, carità, ma è questo, certo, è messo in conto. Poi è chiaramente compito nostro neutralizzare questi quattro rifiuti umani, però probabilmente ci riusciremmo meglio se potessimo disporre anche dell'aiuto della gente. Della detto questo, poi forse va anche detto che insomma la pretesa di affrontare e risolvere i problemi di Napoli soltanto a suon di fiaccolate, cortei, tavole rotonde, dibattiti che vanno dal sociologico al disagio sociale, alla mancanza di lavoro. Lei dice non basta evidentemente. Brevemente, questore, perché siamo un po' stretti con gli spazi, i militari vi possono essere utili, lo dico, ma proprio per voi, no? Per voi che siete operativi, sì, sulle indagini. Assolutamente sì, lo saranno, non dal punto di vista delle indagini, lo saranno perché i militari costituiscono una risorsa. Perché vi liberano del problema del controllo stretto del territorio e vi permettono di indagare, in sostanza. Ci liberano o ci affiancano, forse certo, è più corretto, certo, ad un'unica condizione, se me lo consente, sì, prego, che nessuno, anche in questo caso, consideri i militari, l'esercito, come la soluzione dei problemi di Napoli, perché è falso. È falso, cioè fuorviante, vuol dire prendere in giro la gente. I militari sono una risorsa e come tale sarà impiegata. Però attenzione che poi c'è tutto il resto che deve funzionare. Molto più semplicemente che ognuno facesse il suo, insomma. La ringrazio, grazie al questore di Napoli anche per la chiarezza delle sue parole. Chiedo scusa al collega giornalista Andrea Cittadini, cronista dell'Ansa, del giornale di Brescia, perché l'ho fatto attendere un po' in linea. Andrea, buongiorno, eccoci. Buongiorno a voi. Allora, eccoci qua per parlare di questa operazione, devo dire, che ha messo in evidenza una realtà terribile. Riguarda una vicenda di pedofilia, è coinvolto 11 persone, tra gli arresti c'è un prete, un vigile urbano, un allenatore di calcio giovanile, un uomo malato di HIV. La Procura di Brescia mi sembra che abbia scoperchiato qualcosa di terribile, Andrea. Sì, è un'inchiesta inquietante, un quadro davvero preoccupante quello che esce da questa indagine. In verità sono 12 le misure cautelari emesse, però ne manca ancora l'appello una persona che al momento è all'estero, ma che i carabinieri sono convinti di riuscire a fermare in breve tempo. È un'inchiesta che nasce dalla denuncia di una madre che vede sul telefonino del figlio sedicenne alcuni messaggi inequivocabili circa rapporti sessuali consumati dal figlio, e da lì prova a parlare con il ragazzo, che naturalmente alza un muro con il genitore, e allora si rivolge ai carabinieri la donna, e qui poi viene scoperto tutto. Il ragazzino, quando andava a casa del padre nella Bergamasca, i genitori erano infatti separati, si incontrava con altri amici con i quali poi aveva questi rapporti sessuali con adulti conosciuti sul sito internet Badoo, e anche se nell'inchiesta, negli atti dell'inchiesta si legge bene come all'inizio i ragazzini non volevano avere rapporti sessuali, tutto era nato come un'idea di fare soldi facili. Infatti un primo episodio era nato proprio così: andavano in due ad un incontro, chiedevano i soldi in anticipo, 50 euro, poi erano riusciti a scappare. Poi evidentemente però il meccanismo è diventato molto più grande di loro. Ascolta, Andrea, molto brevemente, c'è questa vicenda che colpisce tutti inevitabilmente, no? Che tra gli arrestati c'è un uomo malato di HIV, e quindi evidentemente è inevitabile il sospetto che abbia potuto contagiare anche questi ragazzini. Sì, tra l'altro questo uomo era già stato fermato nelle scorse settimane dalla polizia locale di Montichiari, sempre nel Bresciano, nell'ambito di un'altra inchiesta. Anche lì si arrivava tramite siti internet, anche lì c'era il coinvolgimento di un minorenne, e possiamo dire che adesso torna l'incubo HIV, perché questo uomo di 56 anni sapeva benissimo di essere affetto da HIV, però nonostante questo chiedeva e pagava di più per poter consumare rapporti sessuali non protetti, e quindi adesso c'è questo incubo che possa avere contratto altre persone. E poi c'è anche l'aspetto inquietante, l'avete già detto prima, di un sacerdote, il coinvolgimento di un sacerdote. E di un allenatore di calcio giovanile. Sì, quindi, sì, giovanile, insomma, tra l'altro di una formazione con ragazzini classe 1999, diciamo veramente... ragazzini molto molto molto giovani. Molto molto giovani. Allora io ti ringrazio, grazie ad Andrea Cittadini per questo racconto, per quanto terribile fosse. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sui mercati di nuovo, poi parleremo del decreto banche, dei decreti banche che sono arrivati questa notte, lo faremo con Marco Ferrando del Sole 24 Ore, e poi dobbiamo ancora farvi sentire le cronache dall'insider di Sanremo, Enrico Ruggeri, a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: le borse affondano di nuovo, Milano perde oltre il 4,5%, vanno male tutti gli istituti di credito, spread oltre i 160 punti. Notizie di poco fa: è stato scarcerato Bruno Poeti, l'ex poliziotto che all'alba di lunedì ha sparato col pendolo uno dei quattro ladri di nazionalità romena che si erano introdotti nel suo terreno nelle campagne di Grosseto. A Brescia la maxi operazione contro la pedofilia, l'avete sentito, in manette anche un prete, un vigile urbano e un allenatore di calcio giovanile. A Napoli ancora morti nelle strade, a Saviano uccisi due uomini in poco più di 30 anni, 7 le vittime in appena 5 giorni. Alla borsa. Effetto giorno. Torniamo a parlare di banche, non per l'andamento che vediamo sui mercati. Le notizie di stamattina ci raccontano, tra l'altro, che il Tribunale di Arezzo ha dichiarato lo stato di insolvenza della vecchia Banca Etruria, respingendo l'eccezione di costituzionalità presentata dagli avvocati di Lorenzo Rosi, che è l'ultimo presidente dell'istituto. Ma il punto è che ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato una serie di provvedimenti, e su questo vogliamo fare il punto con Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Marco, buongiorno. Buongiorno. Allora, c'è la riforma del credito cooperativo, c'è il via libera alle nuove norme per lo smaltimento delle sofferenze, ossia dei crediti inesigibili, anche un DDL per la riforma della legge fallimentare. Marco, indicaci quali sono secondo te i punti critici, diciamo, dell'operazione di ieri del governo, e quali sono invece i punti più solidi secondo te. I punti più solidi è che finalmente il decreto è nero su bianco, quindi dopo averne parlato per tante settimane finalmente si è visto. Però partiamo dai punti critici, nel senso che c'era molta attenzione sulle sofferenze che, come sappiamo tristemente, da settimane sono additate come uno dei motivi per cui le banche stanno andando particolarmente male in borsa. Ebbene, su questo tema c'è sì la norma che prevede le garanzie pubbliche per le cartolarizzazioni, quella di cui oggetto di lungo e estenuante negoziato con la Commissione europea, ma per quanto riguarda invece le norme legate al diritto fallimentare, che sono fondamentali perché le banche possano valorizzare il collaterale, che essenzialmente sono immobili, case, appartamenti, capannoni a garanzia dei crediti deteriorati, ebbene su questo è uscito molto poco, nel senso che c'è un, diciamo, un bonus, un jolly, un gettone per le aste giudiziarie, per cui di fatto chi compra in asta viene agevolato perché pagherà una cifra forfettaria e non il 9% del valore, se ricordo bene, ma c'è soltanto questo. Per il resto si è rinviato di fatto alla riforma del diritto fallimentare, e quindi norme ad impatto immediato sul fronte dei tempi di recupero dei crediti in più non ci sono. Tra i dati positivi invece c'è sicuramente la riforma del credito cooperativo, anche se anche qui sono intervenute, c'è stato anche un po' di giallo nella notte, entra, esce, capogruppo unica, non capogruppo unica, alla fine la riforma per come è passata prevede nei fatti che ci sarà soltanto una unica capogruppo, perché si pone come minimo di patrimonio il miliardo, quindi di fatto le BCC, che sono tante ma non le cifre che ruotano intorno a loro spesso sono basse, non potranno costituire più di una capogruppo, però di fatto è stata prevista una via d'uscita per chi avrà un patrimonio superiore ai 200 milioni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le BCC più grandi, BCC Bologna, BCC, ci sono alcune BCC toscane in particolare, potranno uscire trasformandosi in SPA. Questo sembra, anche dalle prime reazioni, aver scontentato tutti. Le BCC che dicono è stata di fatto violentata l'idea stessa del credito cooperativo, prevedendo una via d'uscita, però pur di diventare a patto che si diventi SPA. E scontenta le stesse banche, perché di fatto alcune, le più grosse, avrebbero voluto rimanere popolari e quindi non diventare SPA, invece così, se vogliono sganciarsi dal gruppo, di fatto devono cambiare radicalmente natura. Questo è un fattore di incertezza. L'idea che escano le più grosse potrebbe di fatto indebolire il sistema, perché se tu togli le più grosse togli anche quelle con maggior patrimonio, che, se vogliamo, il valore aggiunto, cioè che chi ha più patrimonio possa soccorrere le meno patrimonializzate in caso di bisogno. Allora, io ti ringrazio Marco Ferrando. Molti dettagli li trovate sul Sole 24 Ore di oggi, ma ancora di più il nostro Marco Ferrando si prepara ad un super lavoro nella giornata di oggi, li troverete sulle pagine Sole 24 Ore di domani. È il momento del nostro diario dall'insider di Sanremo, Enrico Ruggeri. Il Sanremo di Ruggeri. Sanremo è una città volubile e capricciosa, così si sveglia con un bellissimo sole e con un clima mite che fa sembrare la giornata precedente di pioggia appartenente a un'altra stagione. Sanremo si sveglia con la grande euforia per il trionfo di ascolti, per Conti, per il festival e per tutto il suo team. Sanremo si sveglia con il lavoro di tutti i cantanti che proseguono le loro peregrinazioni attraverso studi televisivi, telegiornali, e poi arriva la seconda serata con altri verdetti in attesa della giornata di oggi. Nella giornata di oggi tutti e 20 cantanti rileggeranno a modo loro dei classici della musica. Per quanto mi riguarda, io canterò a canzoncella degli Alunni del Sole, con l'augurio che anche questa giornata sia appunto piena di sole, perché c'è una bella differenza tra farsi un festival sotto la pioggia e invece godere di una città che, quando vuole, sa essere molto bella. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.